Pom pom pom pom, eccovi lo zio Fred. I had to prove that I could make it alone now, but that's not me. I wanted to show how independent I've grown now, but that's not me. Benvenuti di nuovo a Radio Antidoto. E dico di nuovo solo perché ci sono di nuovo io. Spero mi sentiate bene, vi sentiate bene, stiate generalmente bene, benissimo. E comunque, bentrovati qui di nuovo sulla nostra bellissima Radio Antidoto. Io ho cominciato con That's Not Me dei Beach Boys da Pet Sounds, giusto per darmi il tempo di scaldare la voce parlando su qualcosa di bello. Oggi sono tornato in radio, sono qui ad Amsterdam, quindi lo zio Fred parla da Amsterdam. E tra i vari motivi di questa trasmissione, raccontarvi un pochettino di cose, tra le cose che mi sono successe e le cose che gentilmente ho scoperto in questi giorni, in questi viaggi. Sono quasi 2 mesi che manco da casa e quindi ho cose da raccontarvi, ecco, tutto lì. E quindi eccoci qua, sono le 11 qui da Amsterdam e oggi vi parlerò del mio viaggio di ritorno dalla splendida Alto, località, l'avevo messo in loop. Dunque, la splendida località dove sono stato, quasi, metti, togli 3 settimane per cercare ispirazione per il nuovo trasformatorio, e di ispirazione devo dire ce n'è stata parecchia. E poi tornando a casa mi sono fermato a Kassel, che è una città ridente di una zona della Germania particolare, vicino a un fiume e con un sacco di storia, ma soprattutto famosa, famigerata tra noi, diciamo, artistoidi, per Documenta, che è, diciamo, una degli eventi ricorrenti dell'arte più simbolicamente forti per le avanguardie europee, anche per come è nata e per le scelte che negli anni l'hanno caratterizzata e gli artisti che ha lanciato. Insomma, Documenta è un po' un mito che fa parte della mia personale mitologia. Non c'ero mai stato e adesso vi racconterò un pochettino di come ci sono arrivato, cosa ci ho trovato, perché ci sono stato, insomma un po' di chiacchiere, di fatti miei, sperando di farvi piacere. E mentre raccolgo le idee per cominciare questo racconto, vi faccio sentire un altro pezzettino, un pezzettino di musica che un po' raccoglie il clima del mio viaggio, il mio viaggio di ritorno. Drive Out to the Desert. Questo più che altro è stata la partenza. Quando sono partito di nuovo da Amsterdam per raggiungere la Francia. Drive out to the desert. Vabbè, sentitevi a Bing Crosby, lo dice meglio di me. Away from the city. where the light hides the sky, and the stars fear to fly, and your eyes can finally see. Find a space that's quiet and lie down on your back. Ground and center. In your head, till your troubles have fled and they cease their attack. Forse siamo tutti degli hippies, forse senza volerlo, degli sporchi fricchettoni, ma lo spazio tranquillo, silenzioso, nel suo rumore di una macchina che cammina per mille chilometri, è uno spazio mentale abbastanza interessante. Il panorama si scioglie davanti, anche se più o meno fissa è la linea delle carreggiate davanti. Io cerco di evitare di viaggiare sull'autostrada, però per andare a Kassel avevo dei limiti di tempo, dei condizionamenti di tempo, per cui ho dovuto prendere l'autostrada. C'è stato un primo bel momento, lasciando tutto quello che era successo ad alto, tutte le cose belle vissute lì, e dopo questo momento fatto di curve, di strada, la strada passa a Erli, che è un posto particolare dove ho visto per la prima volta dei cervi sulla strada durante il lockdown. Poi vabbè, mi ero fermato a fare un po' di viveri, quindi avevo da mangiare, da bere, insomma, comodo, guidato parecchio. Sono arrivato all'autostrada con un errore, cioè avevo inserito come al solito la strada più breve nel navigatore senza autostrade, quindi sono passato dal Barolo, dalla terra del Barolo, non per qualche strano motivo, non sono salito subito in autostrada. Quando ho visto le colline del Barolo, che è un vino, come sapete, molto particolare, mi sono detto, ah, ho sbagliato strada. Quindi ho ripreso un'autostrada, sono passato a Milano, che era un incubo, passandoci fuori, però molto velocemente. Ho raggiunto Como, Chiasso, e poi guida, tutta la Svizzera. Fino a un certo punto, dopo aver passato la galleria sotto il Gran San Bernardo, in direzione di... Aspetta, come si chiama il posto? Bergens, che è un posto famoso per un festival di opera fatto sul lago. C'è un lago, il lago di Costanza. Vabbè, insomma, andando verso Bergens, passo il Gran San Bernardo, mi fermo in una piazzola davanti a un ristorante chiuso e abbandonato, mangio qualche cosa, faccio pipì, respiro, vedo la montagna sopra, mi sento piccolissimo, ma soddisfatto, ecco, soddisfatto, questa era una cosa particolare. Vabbè, tiro dritto, guido altro po', faccio la mia sosta per dormire, dormo prima mi fermo in una piazzola di servizio, ma faceva un caldo fottuto perché c'era il fön, il vento caldo che viene giù dalle montagne, si vede il calore dell'Italia, passava in Svizzera e scendeva giù, e si schiattava, non si respirava. In più mi stava antipatico il posto perché c'era un Burger King. Il problema di viaggiare in autostrada è che i tuoi incontri sono sempre standardizzati, ovvi, quindi non particolarmente interessanti. E quindi niente, sono uscito dall'autostrada un po' più avanti in Germania e mi sono fermato ai piedi di una volta di un fiume, ai piedi di una montagnotta, in un quartiere molto residenziale. Però scendendo la mattina all'alba, scendo e mi trovo in una bellissima cittadina della Baviera, insomma non saprei come si chiama, però era proprio bello, c'era un fiume, un supermercato aperto, un sacco di negozietti, ho fatto un po' di foto, tutto molto deserto, molto solitario, quindi diciamo l'essere solo è stata proprio la cifra di questa prima parte del viaggio. Dopodiché cerco di camminare, dico con la macchina bisogna andare, adesso bisogna andare, e soltanto è un gran sonno, per cui sono dovuto fermare un sacco di volte, l'autostrada mi ipnotizza, e quindi sono arrivato a Kassel più o meno verso le 2 del pomeriggio, le 3, una cosa del genere. Allora, Kassel è una città che è stata completamente bombardata, un po' come Amburgo, come durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi è stata rasa al suolo. La parte medievale rimangono poche cose. E invece è circondata da un bellissimo parco, l'Orangerie, un parco settecentesco, che poi ho esplorato negli altri giorni. C'è un sacco di verde, un sacco di spazio. E dopo così tanto tempo la brutalità della distruzione medievale non manca tantissimo, perché poi alla fine, all'interno di quel contesto lì, tutto questo spazio è bello. Sono arrivato nella piazza principale, si chiama Frederiksborg, una cosa del genere. Aspetta, devo prendere la mappa per potervi raccontare bene, perché comunque l'idea è che volevo trasmettere, arrivare in questo luogo molto vuoto, molto verde, dopo tanto viaggiare sulla strada, parcheggiato la macchina piena di roba in una strada laterale, un po' preoccupato, chissà se mi fregano tutto, poi ho deciso di fregarmi, e poi cercare le persone che mi avevano invitato, fondamentalmente perché ero a Kassel. Stiamo collaborando come trasformatorio, ma anche io come artista insieme a Emanuele Ravidarre, con un collettivo di artisti taiwanesi, di Kaohsiung. Abbiamo fatto amicizia negli anni, io sono stato lì, abbiamo fatto degli scambi, abbiamo provato a scambiarci del materiale degli artisti per Trasformatorio 20, che poi ovviamente è naufragata la cosa. Loro hanno anche partecipato a alcune cose sulla radio, forse qualcuno di voi si ricorderà le dirette dal Salone di Bellezza di Kaohsiung, poi problemi di orari fondamentalmente, cioè ci sono 7 ore e mezzo di fuso orario, 7 ore di fuso orario, un po' difficile, ci hanno un po' allontanato, però siamo rimasti sempre in contatto, e loro come collettivo sono stati invitati in questa documenta insieme a un collettivo di collettivi che si è formato in Indonesia e che si è allargato ad includere, diciamo, tutto il sud-est asiatico, Taiwan, le Filippine, l'Indonesia, la Malesia, altre nazioni del luogo, diaspora di Hong Kong e tantissime altre realtà molto diverse che però si sono riunite per questa documenta grazie a un'intuizione favolosa che vi voglio raccontare, un'intuizione, vabbè, ve la racconto dopo la scena di me che arrivo in questa città che non conosco, parcheggio la macchina in un posto che mi ha detto il navigatore dopo 1050 chilometri non stop, scendo dalla macchina, arrivo sul retro di questo enorme museo che dà su una piazza sconfinata, una piazza che sembra enorme, sembra di stare dentro un parco, bellissima piazza, enorme il museo, è popolato da tantissima gente che entra, esce, fa cose, dipinge, sembra tutto perfettamente organizzato, ma io non so da che parte cominciare. Per fortuna mi raggiunge Xiao Yin, che è la coordinatrice del gruppo di taiwanesi con cui ero in contatto via Telegram, mi raggiunge sul retro, ci vediamo da lontano, lei c'ha la mascherina, la prima cosa che mi dice è: guarda, può darsi che ho il Covid, quindi, ops, scusa, quindi la distanza rimane, e mi porta all'interno nel retro di questo enorme museo, che è pieno, brulicante di gente, sembra che sia stato scuottato, ma non ci sia la polizia, brulica di gente di tutti i tipi, soprattutto asiatici, ma non solo, tutti intenti nel fare qualche cosa, chi porta l'acqua, chi cucina, chi fuma, chi discute, con una calma serafica e in un ambiente istituzionale, perché è il retro di un museo, intarsiato di colori, soprattutto colori, oggetti, persone che sembrano uscire da questo museo come un brulicare di colore, su questo sfondo estremamente pulito del museo, ricostruito dopo la guerra e tenuto come fosse un oggetto sacro. All'interno, faccio un rapido giro di questo oggetto sacro, stanno finendo di sistemare le installazioni, tutti questi vari collettivi di persone. Ogni collettivo è un cerchio, quindi un cerchio di gente che si conosce o non si conosce, che ha un'idea di qualcosa da fare e che sta lavorando all'interno del posto. Mi ricorda moltissimo il nostro trasformatorio come atmosfera, però per la prima volta non sono parte di questa atmosfera da dentro, ma arrivo da fuori, no? Quindi è come un po' atterrare su un pianeta sconosciuto, un po' la guerra stellare, arrivi su questo pianeta e ci sono tante cose da capire, non conosci nessuno, quindi è una festa praticamente. Insomma, arrivo e mi viene dato, una sorpresa molto gradita, un badge giallo con sopra scritto artist, grazie, e valido però per accesso in ogni posto, in ogni luogo, e come scoprirò poi il giorno dopo anche per l'autobus, si poteva pagare l'autobus facendo vedere il badge artista. Un po' come se ti dessero le chiavi della città, mi hanno dato le chiavi della città, che volevo di più? A quel punto, che ho fatto? Vabbè, ho salutato le persone che conoscevo, due o tre, preso accordi per la sera e mi devo trovare un posto dove dormire. Sfruttando il fatto che ho la macchina e molto cauto nel lasciare la macchina parcheggiata chissà dove, visto che c'avevo tutto ciò che possiedo dentro la macchina, mi prendo un posto a 5-6 km dal centro, booking, insomma, velocemente trovo un posto, faccio il check-in, entro Insomma, mi lavo, ecco, questo è molto importante. Ero un po' imbarazzato all'inizio a arrivare in questa situazione perché ero l'unico lercio, in quanto avevo dormito in macchina, ero partito in fretta dopo praticamente 2 settimane di campeggio, 1,5 settimane di quasi campeggio, insomma, liso e lercio. Assolutamente lercio, per cui arrivo in questo posto tedeschissimo, organizzatissimo, c'è tutto, c'è un bel bagno, una bella doccia, questo bed and breakfast, piglio, faccio la doccia, mi lavo, mi rivesto, torno a bomba a vedere questa situazione di documento. Voi immaginatevi, tu hai in testa tutta questa cosa, l'arte, la sacralità dell'arte, la mostra organizzata, le biennali, le rotture di cazzo infinite di questa arte autoreferenziale che viene, in cui entri come se entrassi in un tempio con il gran sacerdote che ti guarda per vedere dove metti i piedi, no? Invece mi ritrovo in un posto che sembra uno squat. Ed è bellissimo, pieno di gente, di tutti artisti, capito? Fa fighissimo. Insomma, torno a bomba con la macchina sempre, parcheggio, torno a trovare i miei amici e mi fanno fare un giretto. Dice, devi aiutare, assolutamente devi aiutarci, eccetera. Allora, prima di fare un giretto mi metto a fare il caffè. No, il caffè l'ho fatto il giorno dopo, sì, è vero, il caffè l'ho fatto la mattina dopo, perché ovviamente avevo con me tutto dal campeggio, avevo anche 2 macchinette del caffè e un sacco di caffè. Ma prima di andare oltre con questo racconto, diciamo, un po' emotivo della cosa, vi faccio ascoltare una piccola registrazione in inglese, sono 10 minuti, di una conversazione che ho registrato il giorno dopo a tavola. Il giorno dopo a tavola ho registrato un po' di persone chiedendole semplicemente qual è il tuo piatto preferito, ma ve lo faccio sentire adesso perché dà una buona idea dell'atmosfera che c'era lì proprio lì. Just got this inspiration. So, good description of your favorite dish to eat. My favorite food, yep, that I love to eat is dumpling. Dumpling, yes. Xiaolongbao. Xiaolongbao. That's my favorite food. Really? It's a dumpling with a thin skin, and there is a soup inside of the dumpling. So you have to like take it with a spoon and then poke a hole. Then you drink the soup. And then you drink the soup. And then you take the dumpling, the rest of the dumpling. That sounds very, very, very precious food. Yeah. Where it comes from? Where have you eaten it last time? I ate it. Where did I eat it? Where? I think it was in Indonesia, in a Chinese restaurant, inside a mall. Well, it doesn't matter if there is a good-hearted cook. Yes. I mean, that's the cook job, no? Uh-huh. Oh, yeah. Mm-hmm. That was like a few months ago. A few months ago. Uh-huh. And why you like it? What is a peculiar, a part of poking a hole and drinking it? Because it has like many forms and ways of accessing it. Mm-hmm. Like it's a dumpling and you expect to eat it like dumplings, as with your hand or like... But it's so delicate. And once actually you eat the rest of the dumpling with the remaining after soup, the poke, yeah, it's like the skin, the good skin, feels like the skin is dancing inside your mouth. Like, wow! It's like, very erotic. Thank you very much. This is a very erotic dish. No, well, not really. Kind of. Well, no. Erotic in a good sense doesn't mean in a sort of voyeuristic way. Oh no. It's really like. No. your description is sexy, let's say. Yeah. So, Xiaolongbao. Xiaolongbao. And you are, sorry? I'm Dina. Dina, for the radio. Mm-hmm. Yeah. And who wants to be next? Bang Agus. Me, no. I have another favorite. You don't have a favorite food? No. I eat everything. Uh-huh. Chinese, African, Malaysian, Indonesian. But you might have the momentary favorite food, like the food you like most now. Right now in Kassel? No, program. I will take it. The most favorite now in Kassel is the the Turkish food. Turkish food. Because it's a full, complete, same as Indonesian food. Sorry to rice, meat, vegetable. Together, yes. I'm good. Hi. There is a huge Turkish community in North Europe. In Kassel, I don't know, but also in Amsterdam. Yeah. Big. So they will be the king of food in Europe, I think. This I don't know, there is a tight competition, but I'm happy you shared this with us. And who's next? Who wants to talk about food? Xiaoyin. What is your favorite food at the moment? At this moment? Mm-hmm. Please present. It can be awkward sometimes. So hard. Because I should see there is no Taiwan food here. There is no Taiwanese food, yes. I don't know. Bread is enough for me, totally enough. Mm. But which bread? I got bread with cream cheese and salmon. Yeah, I love the salmon. Ah, bread with salmon with a little bit of salted butter. Yes. No, it's unacceptable. Thin or thick? How you prefer? A thick layer of bread or a thin layer of bread? But like, thick. Where are you? Like, thicker, so but toasted or not toasted? Don't toast it. My favorite is toasted with a little bit of butter, then the butter melts, but not too much. I don't think general will do that. Because it's awkward when someone tells you. Yeah, and then you put the salmon on it. So for me, I don't. But it has to be cold, because if you put the salmon and the bread is still hot, then it cooks. When someone tells you that, you're like, wow, I'm the worst person in the world. Well, that was Xiaoyin. Who wants to be next? Nobody. I'm scared. Do you want to share your favorite food for the radio? Your most loved food, yes. Oh. I'm making a small radio. My most loved food. Come back to me, I have to think about it. Food. My most loved food. Yeah, well, something you want to share with me, like you see me and said, I want this guy to taste this food. Come back to me. Let me think a bit. You want to think about it? Yeah. Because you don't know me. By the way, no, because I like a lot of food, so I have to decide which one that I want to introduce share. Myself. Tessa. Of course, Tessa. Yeah. So Tessa. Okay, I mean, recently. Let me give you one recently. Yeah, one recently. Also from a Chinese restaurant called Yellow River. Uh-huh. And for the longest time, we thought it was just a money laundering front because literally nothing happens there. Like you can't, it's been there for years and has the best real estate. Uh-huh. And like nothing happens. Like, nothing happens. But the best food. Uh-huh. And you wouldn't think that it's actually operational. But they have these like hand-pulled noodles. Mm. With chili and garlic, and it's really simple, but so good. And I don't eat chili much because my stomach doesn't respond well, sadly. My mouth loves it, but I'll eat it anyway because the noodles are that good. They're that good. And every time you go, there are like three other people there. Like, it's this massive guy. It's an enormous place, no one is there, and they have the best chili. One of the people who runs it, his name is Dr. Wen. And he has like a clinic. So I think he just does it for fun. Mm. And so he'll always come and be like, how's the food? But he'll yell it. He'll be like, how's the food? And you're like, it's always delicious. It's always so good. So good. So that off the top of my head. Thank but there are many things. There are many options. I could have gone. Where is this restaurant? In Kampala. In Kampala? Kampala. So if I go to downtown Kampala, Not downtown, it's like maybe 15 minutes from downtown. I'll ask around. Okay, so another thing I mean. See, I told you, I have to think about it. Chapati. Chapati. It's a flatbread. Yeah. And it goes, like, because it's a flatbread, it can go with so many things. But if you have someone who makes it really well, it's just like soft, but then like kind of crunchy on the outside, and just absorbs everything and like makes it better. Uh-huh. And it's like a thicker, it's denser than like a wrap for like falafel or whatever. So you put something with sauce, and the sauce gets in the bread, but bread stays crunchy outside. So when you eat it, there's a texture. So different people. Uh-huh. So it's East African, but like by way of India. So everyone has a different way of making it. Uh-huh. And so some people like will put sugar in it. Some people will put carrot, shredded carrot in it. Some people will make it like really dense and like harder to roll. And some people make it like really light. So my favorite one is like really light. And all just like and, and you can eat it with anything, and it keeps really well. You can freeze it, and then you warm it up, and then it crunches a little bit on the outside. I'm kind of bored. Have like scrambled eggs with it in the morning. Uh-huh. I'm kind of bored. I'm already with you in Kampala. You know, and we are somewhere, and there is this city and the noise, and it's morning, and we are a bunch of friends, and you make this. Yes. With fresh herbs. I don't know why. I tasted the herbs. Yeah. Okay. It's very good. Thank you very much, Tessa. My pleasure. Right. Who wants to be next? I'm collecting. Please. What do you have to do? Food. What? Yes. Your most loved food for today. For today. You mean because whatever it's a too difficult around. Question in the sense that. If you ask the favorite food, it's too different. But today, if I ask you, what is your favorite? Okay. My comfort food. No. My comfort food is nasi goreng. What? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. It's fried rice. Yeah. I know. I'm fortunate enough to have access to a good nasi goreng place close to my house. Good for you. Very nice. And how do you cook it? Should I explain the whole process? No, I mean, if you imagine it, you know, the perfect food nasi goreng is it's done by you, it's done in a restaurant, it's done by your mother, or no? You just fry some things and then cook the rice, put some good spice and mix it. No, but I mean for you, where do you eat it? Yeah. No, because she's a bit shy, I try to force her. Very horrible person. It's all right, but maybe Cass can tell you. Cass. What's the difference? Favorite food. Okay. You know, there is... I start with introduction. Next to the place I grew up, like one block away, That is Almaty in Kazakhstan. There is a little cafe, and it's been a very long since I was a child, really, since I was like 5 years old, and it's still there. And it's Dungan food. Dungan is like a group of people initially from China who converted to Islam, and then because there was some kind of conflict there, they migrate, and now most of them live different places in Central Asia. And they have a specific combination of food. It's very a lot of spice, but also quite it's not a lot of fried stuff. It's more like boiled and stuff that is Like a stew. Yeah, like more softer and like like liquid things. Kind of stew with a lot of spice inside. Yeah. And the place or Dungan. Yeah, in China there's still I think the same group is still in China partly, and within China it's called Hui, I think, from what I understand. But there are a couple, I actually don't remember the names, but it's this kind of rice with a kind of a liquid, like a sauce, and it can be with different things. The filling of the sauce can be either meats or it can be some just vegetables, things like this. But it's just very... maybe it's because of memories, you know, because I was coming back from school and ate this place, or like many times I returned, and it's kind of a thing that's been a place to return. Happy birthday to you! About this food, you are in that place. Yeah, because I have no idea how to cook it, you know. But it's still emotionally important. And if you have to compare it to something, we will. Like, you know. I don't know, Chianti wine is like thank you, Mara. Thank the cry you. Of a pork. Amazing, great. I like it's like a winter evening, kind of thing, to me. It's very romantic. Thank you very much. Sounds very proper, very romantic. She said, thank send you. Me photos. My dog's looking back. Thank you very much. I'm going to put this in Radio Antidoto. A small project of radio that we did while we were supposed to do this artist lab, but then COVID happened. We were all blocked in the house. So we tried to do some streaming, but if you do streaming on a platform, you cannot use music. So I had a streaming server, so we started a streaming radio. And it's 2 years and it's still going on. And we have programs and stuff. We started with like 10 people, then became like 50, and now it's about 10 again. But every now and then somebody else starts streaming. It's a sort of small community radio, but completely scattered around the world. Anybody wants to do radio, just give them the password of the server. And you can do streaming. What's it called? Radio Antidoto. Antidoto. Yeah, that means the antidote radio. Because there is a lot of poison nowadays. We need antidotes, yes. Thank you very much, everybody, for sharing. So, this is... questo sono io. Stavo parlando il mio inglese fantastico. Questo sono io che faccio anche un po' di pubblicità. Radio Antidoto, lì a Documenta. Ma soprattutto è l'atmosfera. Entrare dalla cucina è stato bellissimo, bellissimo. Tutta questa gente da posti assurdi che non riesci neanche a immaginare, che so, Giacarta, Kampala. È stato veramente bello. Comunque, grazie a questa, diciamo, bella esperienza, sono stato portato di botto nel posto del crimine. Allora, voi non avrete sentito perché queste cose non si sentono molto nei circuiti italiani, però c'è stata un'enorme polemica intorno a Documenta 15. Innanzitutto è stata molto coraggiosa la scelta, facciamo un passo indietro per raccontare la storia, scelta curatoriale geniale, ma sicuramente molto poco, molto coraggiosa, quindi esposta, quella di 5 anni fa, Documenta è un evento quinquennale. 5 anni fa hanno deciso di fare un concorso per la curatela a cui ha partecipato questo collettivo di Giacarta, di indonesiani, con un progetto che dice: non vogliamo essere diciamo i nuovi curatori, vogliamo che la biennale si unisca a noi, sì, la quinquennale Documenta si unisca a noi e diventi parte del nostro circuito. E adesso poi vado nel dettaglio perché la cosa sembra un po' strana. Insomma, la biennale in quest'anno è stata molto da ridaglie biennale, fotti di biennale, no, volevo dire, Documenta era molto esposta per questa scelta coraggiosa di curatela, dare la curatela completamente a un collettivo asiatico che poi ha esteso la cosa dandogli un forte impronta asiatica. Però questo ha dato, come vedremo, una impronta estremamente interessante alla mostra. Comunque c'è stata un'enorme polemica di recente su un artista indonesiano praticamente non si sa chi sia, perché l'opera era collettiva, era stata messa su collettivamente, che ha dovuto coprire e poi rimuovere parte di una sua installazione. Il motivo è che nell'installazione sul potere, che riporta un lavoro degli anni 2000, dei primi due anni 2000, quindi un lavoro storico, storicizzato, c'era una immagine che aveva lo stesso stile delle caricature grottesche sui giornali, diciamo, degli anni 30, di tipo antisemita. Per una coincidenza, pare, questa immagine veniva letta dal pubblico come un'immagine antisemita. E questo ha portato dapprima a un attacco da parte di un giornalista, poi al fatto che il comitato di Kassel di Documenta ha chiesto e ottenuto dai curatori la rimozione dell'opera. Dopodiché, grande polemica, la censura, chiudiamo tutta Kassel, questi vengono da noi a prenderci in giro perché siamo stati antisemiti, tutta una serie di porcherie sulla stampa, diciamo, meno, come si suol dire, meno colta, ecco, non diciamo di destra o di sinistra, ma meno colta. E allo stesso tempo una gran polemica sul rimozionismo, sulla nuova cultura di sinistra che rimuove la storia. E tutto questo per mettere anche tatticamente in ombra la forte connotazione di decolonizzazione di questa curatela, che propone una metodologia di sviluppo e di sostenibilità artistica, ma anche completamente una visione diversa dell'artista nella società da quella dell'Ovest, diciamo, capitalista, ma anche della Cina ufficiale o di quell'arte del governo che prospera tra le varie biennali. È un qualcosa di completamente diverso. Adesso proverò a raccontarvi un po' due o tre cose del perché era diverso, però prima voglio continuare con il mio viaggio, perché la prospettiva personale poi alla fine è un po' più divertente della prospettiva mediata dall'intelletto. Quindi salgo su questo tram insieme ai miei amici taiwanesi e un po' di amici loro indonesiani e vengo portato verso questa esibizione, quella marcata a fuoco dalla polemica. Salgo sul tram senza pagare e sono preoccupato perché sono in Germania, sono italiano, sono insieme a un gruppo di artisti di tutto il mondo, mi preoccupo un po' di questo fatto che sono salito sul tram senza pagare. Però da buon italiano dico pure, vabbè, ma chi se ne frega. Vediamo un po' che succede, casomai scappo. Facciamo un po' di fermate di tram, ci fermiamo davanti a quella che sembra una scuola e nel parco davanti alla scuola ci sono tutta una serie di cartelloni da protesta, cioè una collezione di cartelli di protesta il cui ognuno è un disegno, alcuni sono costruiti come dei burattini ed è un disegno che esprime un concetto di, diciamo, di tipo da artivista, diciamo. È una mostra di artivismo da fuori. Intorno ci sono degli stand dove puoi andare, vedi sempre a lavorare tutti questi ragazzi, ragazzi e ragazze, molto queer, diciamo, come ambiente molto queer nel senso buono del termine, non credo che ci sia un senso cattivo, però non da esibizione di una caratteristica o di appartenenza a un certo tipo di subcultura, ma più di che aveva un tono come di come dovrebbe essere, cioè io sono così e sto, ma non è importante, è importante che sto facendo una cosa anche per te, no? Sto, che ne so, preparando il cibo o preparando le magliette. Ecco, le magliette in particolare mi hanno colpito perché è uno stand fighissimo, piccolo piccolo, però ben fatto, in cui 4-5 persone preparavano magliette molto, molto belle, che volevi subito comprarne una, con lo stesso tipo di grafica dei cartelli di protesta, però fatte con il timbro. Quindi un modo, una tecnica anche estremamente immediata di produrre magliette. Non erano comprate fuori, erano fatte, autoprodotte. Questo è un carattere che abbiamo sempre visto all'interno dei, che ne so, dei centri sociali, delle autoproduzioni, eccetera. Ma l'atmosfera era più allegra, più aperta. Il fatto che non fossimo chiusi dentro una stanza di un centro sociale, ma in un prato, in un campo, cambiava completamente l'atmosfera. Sono poi entrato, l'esibizione era bellissima, c'erano dei quadri bellissimi, moltissimo colore. Mi ha ricordato un po', e lì l'ho anche condivisa questa cosa con gli amici lì presenti. Dico, ma vabbè, ma questa è agitprop, cioè agitprop è un tipo di estetica nata negli anni 20, dopo, comunque insieme dopo la rivoluzione sovietica, in Europa, in appoggio della propaganda comunista dei soviet. Molti personaggi anche dell'arte del primo dopoguerra tedesco partirono sui treni per fare giri di teatro, portare il teatro socialista nell'Unione Sovietica, e usavano questi pannelli in cui i concetti erano resi in immagini, con una forte connotazione dadaista, espressionista, eccetera. Penso, per esempio, chi lo riportò nel teatro poi fu Brecht, fu Piscator, che lavorava con Brecht, e tanti altri. Questa estetica esplose, ed era un'estetica tendenzialmente futurista, ma con una connotazione futur dataista, di espressione, gioia, di nuovo modo di pensare il mondo, no? Un mondo completamente nuovo, un mondo delle folle. Stiamo parlando dei soviet prima di Stalin, ovviamente. E niente, questa estetica fa un viaggio, diventa un'altra cosa in tanti modi e mi ritorna più o meno dove è nata, con questa forte connotazione a stati asiatica e decolonizzata, che ho trovato stupenda. Vi manderò qualche foto, ma mi hanno colpito molto le immagini di popolazioni oppresse, di oppressione. Ho trovato tutto, ma era giusto perché era arte prodotta, diciamo, nell'ambito della grande spinta rivoluzionaria della caduta di Suharto alla fine degli anni 90. Ho ritrovato ovviamente dal dottor Bad Trip a tutta una serie di associazioni estetiche con la mia gioventù, diciamo, però con una grafica, un'estetica, un colore completamente diverso, molto rinfrescante. L'effetto è stato di ritrovarmi profondamente a casa in mezzo a queste opere, ma anche profondamente sorpreso, il che è stato molto bello, devo dire. Purtroppo non ho registrato moltissimo, a parte quella registrazione sul cibo, molto divertente, che dava l'idea della cucina. Sono poi tornato. Ah, una cosa buffissima che mi è successa è che, tornando la sera, questo della visita è successo al pomeriggio, poi tornando la sera, dopo aver parcheggiato la macchina, ero preoccupato perché l'avevo lasciata un quarto d'ora prima che, insomma, vabbè, per vari motivi ero preoccupato di dove avevo parcheggiato la macchina. Mentre aspettavo a un semaforo, Mi giro, vedo una ragazza che sembra veramente una di lì e le chiedo in inglese: scusami, sai per caso che cosa devo fare con la macchina qua e là? E lei mi risponde in inglese, in ottimo inglese: no, guarda, non sono di qua. Dico: ah, ma dove stai andando? No, sto andando qui, lì, a questa cosa, a cassa, il documento, eccetera, eccetera. Ci mettiamo a chiacchierare e mi porta a vedere un padiglione della mostra che era invece stato organizzato dai thailandesi di fronte al padiglione ufficiale, sempre nel parco, un pochettino più nascosto rispetto al Frederik Chanum, che è il museo principale. Questo padiglione è una meraviglia. Meraviglia di intreccio di canne, ci sono dei grossi vasi per far partire le piante. È un ristorante all'aperto, stile thailandese apparentemente, fatto con dei giochi di intrecci di canne, bambù, ma anche robusta. Semplicemente spettacolare, io ero senza parole, era bellissimo. Poi tra l'altro i legumi che stavano crescendo in questi vasi erano stati piantati con amore, si vedeva che stavano crescendo, avrebbero dato frutto, i pomodori, le cose, eccetera. Insomma, una cosa fatta con cuore. E in questo posto, guarda caso, stava avvenendo un dibattito proprio sull'incidente, diciamo, che ha portato a questa censura. E stavano parlando loro tra artisti, un pochettino in un dibattito aperto, di questo avvenimento e di cosa farne. E lì è uscito molto bene il termine di contesto, no? Un evento che rappresenta una distorsione dovuta al contesto, un'immagine che è perfettamente ok in ambito indonesiano, diventa un'altra immagine che appartiene alla storia tedesca in Germania, e quindi lo stesso artista, lo stesso collettivo di artisti decide di rimuoverla, sotto pressione, ma comunque accetta di rimuoverla perché il significato di quell'immagine in quell'altro contesto veniva completamente traslato. E allo stesso modo c'era adesso bisogno, sentivano bisogno di una discussione. La discussione era fatta in quel contesto lì, dove dalla cucina alla fine è arrivato del cibo, cucinato, devo dire, con molto amore dalle persone lì della cucina. Saremmo stati una sessantina di persone, quindi giusto un assaggio, però il simbolo è stato interessante, anche perché l'ultima parola del dibattito è stata chiesta alla cucina e ho trovato questo da parte del moderatore una cosa estremamente, della moderatrice, una cosa estremamente buona. Dice: va bene, voglio dare l'ultima parola prima che con il cibo alla cucina, che forse ha qualcosa da dire. E in effetti la cuoca ha detto delle cose molto sagge in quel frangente. Tanto che sia io che molti altri ci eravamo commossi proprio nell'attitudine. Aveva veramente qualcosa da dire, l'ha detto. Comunque il padiglioncello era stupendo, il parco bellissimo. Il giorno dopo ho fatto anche un giro all'interno dello stesso padiglione del museo davanti al quale eravamo, e le parti più tradizionali, quelle più intese tipo padiglione, erano in effetti le meno interessanti. Le cose più interessanti erano quelle connesse con il flusso e quindi alla trasformatorio, diciamo. Comunque, faccio un giro in questo padiglione, c'era un'altra cosa molto interessante, c'era un cinema che faceva vedere un film costruito apposta, prodotto per l'evento dagli ugandesi. Voi forse sapete che in Uganda c'è una fortissima industria cinematografica di quartiere, cioè c'è un intero quartiere poverissimo che si presta a costruire film divertentissimi, che sono neanche delle parodie, proprio dei film d'azione stile blockbuster, però fatti da locali con le tecniche che possono e gli effetti speciali più assurdi. E bene, c'era questo cinema con i manifesti dei film, una proiezione, e c'era anche un'intera stamperia di libri che continuava a produrre libri progetto continuo in cui, andando lì, parlando un po', sono sicuro avrebbero prodotto qualsiasi tipo di libro. E ho trovato bellissimo fare una quinquennale che si chiama Documenta, che produce documenti lì per lì, alla carta, come il cibo. Venivano fatti libri, bastava trovare, non lo so, avere una storia da dire, trovare qualcuno che si prestasse a disegnarla, a prestarti qualcosa, eccetera, e potevi produrre un libro, in effetti. E non era una delle opzioni di un tabloid pieno di opzioni in cui tu, che hai pagato il biglietto, puoi azionare. Era veramente lo squat della manifestazione, quindi nel flusso tu potevi interagire con delle persone che stavano stampando, parlarne, se tutti insieme si era d'accordo, con una specie di consenso sinestetico, di fare qualche cosa, veniva realizzato lì per lì. Per cui tante volte ho sentito un pochettino questa forza di trasformatorio, no? che si muoveva, che di trasformatorio, perché noi la conosciamo, la esprimiamo attraverso trasformatore, ma che girava all'interno del documento. Io penso, a questo punto è passata quasi un'ora che parlo, vi metto un pezzo e poi magari entriamo nel dettaglio, se ci sarà interesse, dei miei racconti, delle mie impressioni di Documenta 15. Ci entriamo anche un'altra volta, forse. Sentiamo un po' se vi sarà piaciuta questa trasmissione, se vi avrà interessato. Ho preso con me l'handbook e i vari libri della curatela, quindi vi darò più informazioni magari in un post che apparirà sul sito della radio, credo, a seguire della trasmissione. E per chiudere, chiudiamo in musica, vi metto Stopover Bombay, questa è Alice Coltrane, con cui vi saluta lo zio Fred e va a prepararsi un po' di cibo, e poi ai racconti, magari a una prossima puntata. Grazie a tutti dell'ascolto e baci dallo zio Fred, da Radio Unpedodo.